cerco la mia metà che mi cerca. Se mi cerchi, lo stai usando un compasso. Se mi cerchi, vuol dire che stai cercando la tua metà. Siamo due, se mi cerchi, siamo volubili e imperfetti. Giorno, guerra dei sessi. Notte, pace di sensi. Arti che si incontrano, dispiaceri delle carni che si incorporano in un solo a bianco. Arti che tu li chiami in blessi, no, sono così complessi che hanno un che di musicale. Se abbiamo organi interni, uniamoli e facciamoli suonare. A rimanzare, pieni silenzi, non spendere parole. Il silenzio nel valuta, a meno delle fisci. Lascia parlare quelle mani sensuali, crisi di peccati. Thank you.